Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Via, via, via, via, via. Oh! On se calme maintenant. Fallait que je... Kumba. Fus. Fus. Oui. Mais vous croyez vraiment je vais aller voir ma mère, je lui dirais fallu que je sois fus. Bah ouais, c'est dans le Moyen-Âge ça. Mais non, c'est pas dans le Moyen-Âge. Est-ce que je peux répondre à la question qui m'est posée? Je vous autorise. La première chose que je constate, c'est qu'avant même de maîtriser un savoir... Se siete insegnanti, genitori, studenti, insomma se vi piace il mondo della scuola, andatelo a vedere il film che state sentendo in sottofondo. Si tratta di La classe di Laurent Canté, che ha vinto l'ultimo Festival di Cannes e ora esce anche in Italia. Dentro quella classe di un sobborgo francese c'è davvero tutto il mondo di oggi, con le sue ricchezze e le sue criticità. Un mondo raccontato con grande semplicità, ma proprio per questo molto efficace. Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione. Presenti 513, votanti 485, astenuti 28, maggioranza 243, favorevoli 280, contrari 205. La Camera approva. Avete sentita la votazione giovedì alla Camera del decreto Gelmini, ora passa al Senato per l'approvazione definitiva che dovrà arrivare entro il 31 ottobre. Dei contenuti del provvedimento abbiamo parlato davvero molto qui ad Obbligo di Frequenza. Fra le altre cose, ve lo ricordo, reintroduce il maestro unico, lo studio dell'educazione civica, il voto anche alle elementari e medie, il voto di condotta che farà media e lo stop alla riedizione continua dei libri di testo. Via libera della Camera, che è arrivato lo stesso giorno della proclamazione dello sciopero generale da parte dei sindacati della scuola, che criticano in particolare soprattutto il maestro unico, che porterà ad 87.000 esuberi, dunque addio sogno del posto fisso per tanti precari. Lo sciopero sarà il 30 ottobre, ieri invece lo sciopero degli studenti. Mi sembra corretto fare appello alla generosità delle aziende. Forse più che sponsorizzare solo squadre di calcio, c'è la necessità di sponsorizzare anche i progetti migliori delle scuole e delle università. Parola di Maria Stella Gelmini qualche giorno fa. Insomma, le aziende si diano da fare per aiutare questa scuola che risparmio su risparmio non ha più gli occhi per piangere. In realtà, e noi ad Obbligo di Frequenza l'abbiamo raccontato molto spesso, sono già molte le imprese e le associazioni industriali attente alla scuola. Molti sono già i progetti, ce n'è uno che verrà presentato fra un mesetto e di cui siamo in grado di anticiparvi alcune linee guida. Si intitola Imprenditori e insegnanti insieme per il futuro del paese. In sostanza ogni azienda dovrebbe adottare in qualche modo una scuola. Ce ne parla Paolo Bastianello del Comitato Tecnico Education di Confindustria. Si tratta di un'iniziativa che deve vedere imprenditori e docenti insieme in un rapporto di reciproca e approfondita conoscenza per il futuro del paese, cioè per i nostri giovani. Queste due realtà, mondo del lavoro e mondo della scuola, devono imparare a frequentarsi senza pregiudizi di qualsiasi tipo, per aumentare le competenze di ogni singolo giovane e le conoscenze dell'industria, ma dei servizi e quant'altro. In particolare, quindi, questo progetto, scendendo un po' più nel dettaglio, certo. che cosa prevede, che cosa succederà? L'idea è quella di coinvolgere le PMI, le piccole e medie aziende di Confindustria su tutto il territorio nazionale, insieme ai giovani di Confindustria, in maniera che in ogni città, in ogni regione, ci sia un gruppo di aziende che, tra virgolette, adotta una scuola, pensiamo a istituti superiori, all'interno di questa scuola un consiglio di docenti o comunque un gruppo di insegnanti per attuare un programma di relazioni che poi alla fine possa portare un sistema di conoscenze tali che apra maggiormente all'alternanza scuola-lavoro, all'apprendistato, a tutte quelle forme che possono unire i due mondi con l'obiettivo di avere un prodotto di competenze, di conoscenze, di relazioni migliori per i nostri giovani. Ecco, di fatto lei che cosa, come la vede nel concreto? Che gli insegnanti facciano degli stage da voi, ci siano dei brainstorming insieme, esatto. Che voi andiate nelle scuole? Esatto, come dice lei, ci siano degli stage presso di noi, degli incontri, delle riunioni. In azienda e a scuola, se noi pensiamo, ad esempio, che allo studio il ripristinare i consigli di amministrazione negli istituti tecnici, laddove insieme al corpo docente ci devono essere o ci potrebbero essere presenze del mondo esterno e quindi del mondo imprenditoriale, ecco, l'obiettivo di creare, anche magari non istituzionalizzati, tanti consigli di amministrazione in tanti istituti dove le realtà del territorio dialogano con la realtà scolastica. È un modo anche per dire da parte delle aziende alle scuole: abbiamo bisogno ad esempio di una figura professionale di questo genere o di figure professionali di questo genere, per favore aiutateci a crearne? Certo, le faccio l'esempio della mia azienda che opera nel prêt-à-porter e che fra 4-5 anni ha un numero di modelliste, di prototipiste, che sono cioè il nervo dell'azienda a livello di capacità e di lavoro, e che andranno tutte in pensione più o meno contemporaneamente. Noi stiamo già lavorando con l'istituto, un istituto tecnico della nostra provincia, e già da 3 anni attuiamo i percorsi di alternanza scuola-lavoro, visti come investimento sui giovani per essere pronti o per crearci tutte le potenzialità per sostituire questo personale esperto, figure professionali che oggi si trovano difficilmente sul mercato del lavoro, con giovani che però conosceranno già bene l'azienda e noi conosceremo già meglio loro. Per creare delle figure professionali anche pronte, no? All'uscita dall'ultimo anno delle superiori ad entrare in azienda, c'è bisogno però anche di laboratori, di strutture, certo, e di, insomma, di una scuola che sia adeguata anche ai tempi. E di questi tempi, mi scusi la ridondanza di parole, non è facile, perché sappiamo che le scuole, insomma, hanno le casse totalmente vuote. Avete previsto anche investimenti economici in tal senso? Allora, in questo progetto non ci sono questi investimenti, però vede, nel momento in cui i due mondi riescono a parlarsi, se noi consideriamo il grande universo delle piccole e medie aziende come un laboratorio con continuamente in essere, forse non potremmo servire a tutte le scuole e a tutti gli studenti, ma potremmo essere una soluzione magari transitoria finché i tempi economici torneranno migliore, per essere un laboratorio aperto alle aziende del territorio e quindi una specie di supplenza qualificata, magari non per tutti, ma certamente presente in maniera continuativa. Quindi potreste essere una valida alternativa al laboratorio che non c'è o che magari è un po', certo, scalcagnato, non ha le tecnologie, certo, diciamo, certo, all'avanguardia, certo, mentre certo, voi aziende ovviamente avete dei laboratori o comunque possono i ragazzi provare davvero dal vivo che cosa significa lavorare sul serio in una vera azienda. Questo è un po' il senso. Esattamente. Questo è dunque il progetto di Confindustria che verrà presentato fra circa un mese, ma ci sono già anche delle scuole che dalle aziende ricevono proprio dei soldi. È il caso dell'Istituto Tecnico Paleocapa di Bergamo, come ci spiega il dirigente scolastico Michele Nicastri. Ma il nostro istituto può godere di finanziamenti che forse rispetto alla media possono essere anche cospicue, nel senso che per attrezzature didattiche c'è un comitato che è costituito da Confindustria, Camere di Commercio, banche, cittadine, aziende, che finanziano le attività dell'istituto per importi che possono essere anche di decine di migliaia di euro, in alcune circostanze può arrivare a 100.000 euro, e questo consente di innovare le dotazioni di laboratorio, ci consente di provvedere all'aggiornamento e alla formazione dei docenti, attività di formazione per maestranza e così via. E questo è un rapporto che è consolidato, diciamo, forse è nato con lo stesso istituto che è più che centenario. Ecco, mi può fare qualche esempio? L'ultimo investimento, tanto per fare un esempio, oppure un investimento che avete previsto da qui a breve? Ma noi, come siamo oggetto di una pesante ristrutturazione dal punto di vista edilizio, stiamo inaugurando varie palazzine dove ricollochiamo gli indirizzi storici del nostro istituto, e quindi alcuni laboratori nuovi sono stati attrezzati con il finanziamento di questo comitato appositamente creato, quindi parlo di laboratori multimediali, attrezzature dell'indirizzo meccanico in particolare, stiamo proseguendo anche con il potenziamento dei laboratori del settore elettrico. I vostri ragazzi hanno poi degli sbocchi professionali presso queste aziende che in qualche modo comunque vi finanziano? Circa una metà degli studenti prosegue gli studi, questo è un altro aspetto da considerare. L'altra metà si colloca nelle aziende del territorio in tempi abbastanza rapidi. In alcuni settori diciamo che le richieste che ci pervengono sono superiori poi al numero di studenti disponibili a quel tipo di assunzione. Cioè vi arrivano già all'ultimo anno di scuola delle richieste di assunzione? Sì, arrivano richieste di nominativi o di studenti idonei ad assunzione in aziende, ma spesso il numero richiesto, sommando i vari dati, supera il numero dei diplomati. È tutto, ci risentiamo la prossima settimana, come sempre alle 12:45.